Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Il futuro nei consumi. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. Impossibile non citare Blade Runner quando si parla di futuro. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali per questa puntata speciale di Essere e Avere dedicata al futuro nei consumi. Quali sono i segnali di futuro che si possono cogliere nella moda, nel design, nella progettazione delle città, nelle tecnologie, negli stili di vita? È quello che cercheremo di capire oggi insieme a chi il futuro, per così dire, lo mastica tutti i giorni: scrittori di fantascienza, anticipatori di tendenze, esperti e guru di settore. Lo faremo partendo da un assunto: il futuro è già ora, basta saperlo individuare. Tomorrow Now, come recita il titolo del più celebre fra i saggi di Bruce Sterling, insieme a William Gibson, uno dei padri del cyberpunk, il filone che individua il suo precursore proprio in Philip Dick, autore di Il cacciatore di androidi, il romanzo al quale è liberamente ispirato Blade Runner. Il cyberpunk proietta nel futuro le scienze avanzate, un mix di high-tech, cultura pop e underground nella visione di Sterling, che per i prossimi anni teorizza un ruolo da protagonista per la cosiddetta realtà aumentata: mondo reale più realtà virtuale più informazioni internet. Well, there's a lot of different things that can be called augmented reality and... Ci sono una quantità di cose diverse che possono essere definite realtà aumentata. A me piacciono di più quelle meno convenzionali, ma se le guardi attentamente, la maggior parte sono un fantasma, come piccoli video fantasma o un effetto speciale che viene importato nello spazio reale tridimensionale. La gente che sta già facendo soldi sfruttando dal punto di vista commerciale la realtà aumentata sta facendo sostanzialmente due cose: pubblicità e wayfinding, cioè le applicazioni per le mappe e la navigazione. In pubblicità, ovviamente, consiste nell'usare una sorta di trucco magico per attirare l'attenzione. E ciò è carino, ma solo finché la gente non si annoia. La wayfinding penso sia un'applicazione più importante. È un modo di usare la realtà aumentata per muoversi in uno spazio tridimensionale, specialmente nelle città. Devo comunque dire che le mie applicazioni preferite sono nei laboratori. Mi piacciono quelle che ancora non funzionano. Quelle che funzionano bene, francamente, mi annoiano. Ecco come queste applicazioni che mescolano reale e virtuale possono già entrare nella vita di tutti i giorni, in un settore dei consumi culturali che, pensate, ha a che fare con la storia e con l'arte. Un telefonino che inquadra strade, piazze e monumenti. Insieme alle immagini sul display compaiono informazioni storiche, curiosità e persino dettagli in più non visibili ad occhio nudo, come la bozza di un dipinto sotto la tela. Ecco come programmi per cellulari di ultima generazione possono già offrire la realtà aumentata nel settore dei beni culturali. E a breve, al posto del telefonino, ci sarà un semplice paio di occhiali che, ad esempio, ci farà vedere la Torre di Pisa prima della fortunata pendenza o il Colosseo ai tempi di Domiziano. E poi ci sono applicazioni in pubblicità, nel marketing, per integrare le mappe satellitari, per vedere gli amici di Facebook seduti al bar. A proposito di social network, Sterling, dissacrante e visionario, ci regala una previsione. Well, I use two of them. I use Flickr and I use Twitter. Io ne uso solo due. Uso Flickr e Twitter. Ma penso che nel futuro i social network moriranno. Intendo, ogni social network che è stato inventato finora non ci sarà più. Ogni social network che è stato inventato tende a morire, con lo stesso ritmo e la stessa velocità dei movimenti artistici. In effetti, penso che si comportino parecchio come movimenti artistici. Cioè, è come se ci fossimo chiesti: qual è il futuro del surrealismo? Ok, morirà, passerà di moda e la gente farà qualcos'altro. Lo puoi vedere in molti social network, quanti ne sono già morti, come GeoCities. La gente è fedele ai social network come ai jeans a zampa d'elefante. Quindi, sì, il loro futuro è di essere sepolti. Non dureranno per sempre. L'idea dei social network probabilmente andrà avanti molto tempo, ma persino la parola social network suonerà davvero arcaica tra 10 anni. Se nel 2019 dirai a qualcuno «sono molto preso dal mio social network», la gente ti risponderà «cosa? Sei cosa?». In 10 years, 2019, you say, I'm really busy on my social network. People are going to say, what? You're what? Facebook maniaci siete avvisati. Maggiori certezze arrivano invece dalla moda e dal design. Che ci dice Lee Edelcourt, direttrice della Design Academy Eindhoven. Tra le 25 persone più influenti nel mondo della moda secondo Time Magazine, torneranno a splendere. Di professione trend forecaster, cioè anticipatrice di tendenze per le più grandi maison di moda e non solo, Lee Edelcourt individua con almeno 2 anni d'anticipo gli elementi che catalizzeranno le produzioni future. Prendete appunti per il 2011. Sia i tessuti freschi, grezzi o ricamati, leggeri e trasparenti, all'insegna di un nuovo romanticismo fatto anche di tulle e merletti. Lunghezze a cascata e strati sovrapposti, un accorgimento che l'instabilità del clima richiederà sempre di più. Grande attenzione alle alghe, nuova fonte di energia da cui si ricavano anche tessuti e cosmetici. Viva i metalli, anche per i gioielli, e i materiali di riuso e di riciclo per l'arredamento, dove domineranno sempre di più gli oggetti impilabili e trasformabili. Puntate sul giallo, che è il nuovo rosa e arriverà presto, come il suo predecessore, anche nell'armadio maschile. E se volete una dritta per un business emergente, pensate a prodotti e servizi che siano utili ai nonni e ai nipotini. Viaggi e attività, soprattutto, da fare insieme. Queste dunque le indicazioni di Lee Edelcourt, parola d'ordine semplicità, anche se la guru della moda di nuova frugalità per il futuro non vuole sentire parlare. I don't believe in a new frugality. Non credo in una nuova frugalità. Vedo che questa crisi è diversa da tutte le altre perché i consumatori l'hanno percepita fin da subito come una crisi finanziaria e perciò non si sono sentiti in colpa come tutte le altre volte. Perciò non prevedo un ritorno ai basics dei consumi, quanto invece una ripresa dei consumi all'insegna di emozioni rinnovate come la gioia, l'erotismo e lo splendore. E questo è molto insolito. Non è mai successo prima d'ora. Sarà una cosa molto diversa. È divertente. And more fun. Per riassumere gli stili di vita futuri, Lee Edelcourt usa una frase ad effetto: We are family, siamo una famiglia. Noi stiamo evidenziando in questo momento un cambiamento nella mentalità e nella società. La gente non vuole più sentirsi solo un individuo, ma vuole portare la propria individualità nel gruppo. Le persone vogliono lavorare insieme, vogliono creare legami e fare cose, fare imprese insieme. E tutto questo è favorito da internet, ma non succede a causa di internet. È un nuovo ideale di vita. Lo vedo specialmente nei giovani, negli studenti, che vogliono sempre lavorare in gruppo e fondano poi dei gruppi che lavorano nel design, coppie, fratelli e sorelle, team. Andiamo incontro ad un periodo in cui ci definiremo sempre di più come gruppi di persone che la pensano allo stesso modo, piuttosto che come individui unici e focalizzati su se stessi. E tutto ciò è molto nuovo. Anche una delle mete cult dello shopping, come i grandi magazzini Selfridges di Londra, recentemente ha messo in vetrina gli oggetti e gli stili di vita del futuro. Come vivremo nel 2109, il nome del progetto a metà strada tra arte e comunicazione, a riprova del fatto che i consumi e i luoghi di consumo stanno diventando un punto d'osservazione privilegiato per riflettere sul futuro. Altro terreno fertile, per così dire, è l'architettura, che nei suoi progetti più visionari ha un elemento comune su tutti, la sostenibilità. Una specie di organismo naturale, in grado di immagazzinare energia e produrre ossigeno grazie a veri e propri polmoni verdi disseminati nel tessuto urbano. Questa, la metropoli del futuro, secondo l'idea di base che accomuna i progetti degli architetti più visionari, pronti a diventare realtà. In cantiere a Mumbai, una gigantesca struttura a forma di uovo, Cyber Tech to Reg, firmata da James Lowe, strutturata come una sorta di pianeta autosufficiente. È invece interamente ricoperto di felci, Dystopian Pharma, il grattacielo a spirale studiato per Manhattan da Eric Verne, in grado di ospitare aziende agricole, residenze e mercati. Precursore del verde verticale, il botanico francese Patrick Blanc che ha già realizzato architetture vegetali, giardini pensili e coltivazioni sulle facciate di molti edifici. Ha stupito il mondo la Sky Farm progettata a Toronto da Gordon Graff. 59 piani, studiati per ospitare appartamenti e coltivazioni a idrocoltura, rete energetica alimentata da un impianto di biogas per la produzione di metano dai rifiuti domestici. Infine, il progetto onirico del belga Vincent Caillebaut. Lilipad è una città acquatica che naviga attorno al mondo come una gigantesca nave, in grado di ospitare fino a 50.000 abitanti. Una città anfibia, spiega l'architetto famoso per le sue ecopolis, per difenderci dall'innalzamento dei livelli dei mari. Architecture, agritettura, il termine coniato per indicare questo tipo di progetti. Guardando dentro l'ambiente domestico, ci piace citare su tutti Biosphere, l'innovativo sistema di home farming progettato da Philips. Un ecosistema completamente autosufficiente, delle dimensioni di una libreria, per coltivare frutta e verdura in un vero e proprio orto domestico. Utilizza, pensate, l'energia prodotta dai rifiuti organici domestici. La sostenibilità ambientale, questa la tendenza, diventerà sempre più smart, lontana da qualsiasi rinuncia, detterà gli stili di vita e di consumo futuri, dicono gli esperti. E ci sono progetti che dimostrano come una casa ecocompatibile possa avere anche un impatto sociale. È la casa 100K, la casa a basso costo e basso impatto ambientale. 100 metri quadri per 100.000 euro. Un progetto sperimentale, tutto italiano, che sta per diventare realtà a Settimo Torinese. Una rivoluzione, ci dice l'architetto che ha firmato il progetto, Mario Cucinella. L'impatto sociale è enorme, perché in tutti i paesi, perché poi noi l'abbiamo riscontrato un po' in tutti i paesi europei, il tema della casa a basso costo è un tema che riguarda milioni di persone, cioè stiamo parlando di occuparci di un segmento della popolazione che è totalmente privo di attenzioni. Se la casa è veramente il luogo dove poi le persone abitano, esprimono, crescono, nascono i bambini, la gente cresce, diventa anziana, cioè è proprio il luogo della vita, noi dobbiamo comunque ascoltarla, dobbiamo ascoltare questo desiderio di una casa di relazione. Cioè sono nate ricerche bellissime come Housing Evolution, dove ci fa capire che le famiglie italiane hanno desideri di vivere in modo diverso, siamo tutti un po' diversi, dobbiamo anche capire questa diversità. Allora, in questo caso la casa 100.000 euro si esprimeva proprio così, cioè un costo per poter accedere alla casa, un'integrazione con le tecnologie fotovoltaiche e solari in generale, per dimostrare che un'innovazione tecnologica non è solo fine a se stessa, è un beneficio di natura sociale, perché io costruisco una casa che consuma poco, con una tecnologia di punta che produce più di quella che consuma, e una famiglia che ha dei redditi bassi si paga una parte del mutuo con l'energia che vende. Cioè questa è veramente un cambiamento, no? Allora, io dico sempre, qui io non sto parlando di sperimentazione, di segreti, di cose che non sappiamo, stiamo parlando di cose totalmente conosciute, no? Dobbiamo solo avere la forza, e questa è la parte più forte della creatività, no? Di mettere insieme tutti questi elementi e farli diventare una macchina di questo tipo. Allora, io mi immagino che i mercati sono grandi, i mercati immobiliari sono vasti, ci sono mille cose, però un segmento dove c'è una casa che costa poco, produce energia, non dà nessun contributo negativo alle emissioni di CO2 e anzi è energia positiva, ecco, mi sembra che questo sia un vero segnale che qualcosa sta cambiando. Bisogna farlo però. Ora parliamo di stili di vita. Le città anticipatrici di nuove tendenze non sono più solo New York, Parigi, Londra, Milano, ma anche città come Stoccolma, Bogotà, Bangalore, Beirut, Santiago del Cile. Diventano laboratori a cielo aperto di nuovi stili di vita, nuovi comportamenti sociali, nuovi modi di viaggiare, giocare, fare sport, fare arte, comunicare. Quali sono i segnali rivelatori? Eccone qualche esempio. Dagli sport urbani come il parkour e il bike polo agli urban games come Pac Manhattan e Monopoly City Streets, fino alle forme di street e public art, gli spazi urbani diventano sempre di più laboratori di espressione creativa. L'arte esce dai luoghi istituzionali come gallerie, musei e fiere per installarsi per strada. A Seul le opere vengono esposte in cubi di vetro sparsi per la città, a Berlino nelle vasche di un'ex piscina comunale, a Madrid nell'ex macello comunale. Città non solo come spazio espressivo, ma anche nuovo polo di aggregazione. I muri delle periferie a New York diventano improvvisati drive-in, le fermate degli autobus a Londra, su progetto del governo, spazi per fare ginnastica, i tetti di Manhattan, nuovi orti urbani dove comprare frutta e verdura biologiche, gli argini dei fiumi, vere e proprie spiagge urbane. I guerriglia gardener trasformano le aree dismesse in nuovi spazi verdi, le aree parcheggio per un giorno in giardini temporanei per picnic metropolitani, i muri in graffiti di muschio. Oggetto simbolo della nuova mobilità urbana, la bicicletta. I suoi coraggiosi appassionati a New York si sono inventati la Google Map per ciclisti. Cliccare per credere. RideTheCity.com. Iniziative queste che partono dal basso, si usa dire dalla strada, da quelle che vengono definite le tribù urbane. C'è anche chi della loro osservazione, della definizione del loro stile come codice comunicativo ne ha fatto il proprio oggetto di studio. Parliamo di Ted Polemus, antropologo, studioso dello street style e delle culture giovanili. Da sempre la strada è fonte di ispirazione continua per stilisti e creativi in genere. Oggi blog come The Sartorialist pubblicano scatti di persone comuni che mostrano i propri abiti non preconfezionati dalle riviste di moda come esempio di stile. Ormai, dice Polemus, è più corretto parlare di stile piuttosto che di moda. Personalmente, sono dell'idea che sarebbe meglio usare la parola stile al posto di moda. Penso che si adatti molto meglio al modo in cui il sistema funziona oggigiorno. Potete usare l'espressione che volete, ma l'importante è che dimentichiate completamente i meccanismi di 20, 30, 40 o 50 anni fa. Non abbiamo un solo look uguale. Ci sono un sacco di richiami retro in giro. Ci sono veri e propri viaggi nel tempo, nel senso che qualcuno torna agli anni 30, qualcuno a qualche altro periodo. Ci sono diverse culture che si stanno innestando l'una sull'altra, in un unico spazio. E in più ciò che rende tutto più complicato è il fatto che ogni individuo, uomo o donna che sia, cerca un modo personale per esprimere se stesso. Come 70.000 anni fa, usando un codice di tipo semiotico per dire «Io sono questa persona». Non si può parlare di consumi senza parlare di pubblicità e marketing. In tempi di crisi negli investimenti, quali saranno gli sviluppi futuri ipotizzabili fin d'ora? Chris Anderson, direttore di Wired, la celebre rivista americana diventata punto di riferimento per tecnologia new media, colui che ha anticipato la cosiddetta social network revolution, prevede uno sviluppo del gratuito come induzione al consumo, come nuova forma di marketing. Ma come si può fare business a partire dal prezzo zero? La chiave, dice Anderson, è la formula freemium, parola che nasce dalla sintesi di free, gratuito, più premium, premio. L'accesso al prodotto è immediato e gratuito e solo in seguito se ne introducono versioni a pagamento. L'opposto esatto della pubblicità, dove prima il prodotto viene raccontato e poi comprato. Ecco come lo spiega lo stesso Anderson. Freemium è quello che noi chiamiamo il primo modello di business del XXI secolo. Se hai un prodotto digitale, puoi distribuire il 90%, puoi regalare fino al 95-99%, puoi distribuirlo gratuitamente quasi tutto, perché il costo che hai sostenuto per farlo è vicino allo zero. Puoi non considerarlo. Quello che poi devi fare è convertire una frazione dell'utilizzatore gratuito del tuo prodotto in utilizzatore pagante, ma offrendogli di più. Ecco cosa fa il freemium. Ecco la novità del gratuito nell'era digitale. In un certo senso, il freemium è il nemico della pubblicità, è il contrario della pubblicità. È una cosa pericolosa e che spaventa, ma è la verità. Pensate alla pubblicità. La pubblicità tradizionale consiste nell'accompagnare la gente verso un prodotto. Prendi qualcuno, lo fai sentire cool e sexy e speri che andrà a comprare quel prodotto. E se lo faranno, qualcuno sarà felice, altri saranno contrariati, perché non saranno esattamente cool e sexy come pensavano. Prendete il trailer di un film di Hollywood. Il trailer è grande, il film è grande. Voi allora andate al cinema per vederlo. Questo è quello che fa la pubblicità. Dice piccole bugie per mascherare la realtà. Rende un prodotto meraviglioso. Perché te ne parla? E se dopo aver comprato il prodotto non ne siete soddisfatti, non importa, perché l'importante è che abbiate comperato il prodotto. Il fatto che ci siano clienti arrabbiati, sedotti e abbandonati non sembra essere un grosso problema, perché la pubblicità funziona così. Ti seduce mentre acquisti. Il modello freemium è l'esatto contrario. Non c'è bisogno di nessuna pubblicità. Le compagnie che usano questo modello non usano nessun'altra forma di pubblicità o di marketing, perché il prodotto gratuito si piazza da solo. Quello che devi fare non è convincere la gente a comprarlo, ma solo a provarlo. E il prodotto si autopromuove. E dopo che l'hanno usato e hanno verificato se va bene per loro e se lo apprezzano, diventeranno degli utilizzatori molto sofisticati. Scopriranno quali sono i loro reali bisogni e quando verrà il momento di pagarlo, lo faranno molto volentieri. Ecco il principio chiave del freemium. I pochi apriranno la strada ai molti. Quel 5% supporterà l'intero mercato. È sufficiente. Il 5% di un grosso numero è un grosso numero. Ricordate che il 95% non vale quasi nulla. È un'opportunità che ha un valore, ma è un valore potenziale, non reale. Una teoria molto controversa, questa del profeta della free economy, si dice scettico Giuliano Noci, ordinario di marketing al Politecnico di Milano, autore del libro Open Marketing. Diciamo che è un tema molto di moda che non mi vede molto d'accordo, nel senso che quello che vedo libero, quello che vedo free è sicuramente una collaborazione sui social network tra gli individui che si scambiano pareri, opinioni su prodotti e idee di consumo. Sono molto meno d'accordo sul fatto che un'economia del free sia sostenibile per il sistema delle imprese che devono hanno operazioni da effettuare, prodotti da consegnare, e in questo senso esiste sempre un value for money. Occorre quindi trovare la formula per essere retribuiti rispetto ai servizi che vengono offerti. Ricordiamoci, lo ricordo agli ascoltatori, quanto rilevante sia la crisi dell'editoria in questo momento, semplicemente perché si era pensato di dare le notizie free, quindi senza costo su internet, e in realtà poi non ci sono controritorni di carattere economico. Quali allora gli scenari prossimi venturi? Su cosa dovranno puntare le aziende? Ancora Noci. Sarà un 2010 molto molto interessante secondo me, nel senso che finalmente le imprese prenderanno piena consapevolezza dell'enorme ruolo giocato dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Devono sapere i nostri radioascoltatori che purtroppo a fronte della grande rilevanza giocata da queste tecnologie le imprese hanno assunto negli ultimi anni ancora un atteggiamento conservativo. Solo il 10% del fatturato degli investimenti in comunicazione è dedicato a questo tipo di canali. Che cosa mi aspetto quindi per il 2010? In primo luogo, una piena consapevolezza del ruolo giocato dalla multicanalità, ovvero della necessità di interagire e costruire una relazione con gli individui su più canali, internet, cellulare, digital signage e chi più ne ha più ne metta. Secondo luogo, mi aspetto finalmente che le imprese comincino a mettere a reddito quelli che sono i social network, quindi sviluppare strategie ad hoc. Per fare che cosa? Sostanzialmente per raggiungere due obiettivi. In primo luogo per cominciare a avere studi di mercato basati sull'osservazione, appunto su quello che avviene sui social network. In secondo luogo per costruire relazioni sempre più consolidate tramite i social network. Infine, mi aspetto che si dia luogo sempre più a quel fenomeno che passa sotto la logica della co-creazione, o per meglio dire crowdsourcing. Quindi l'individuo diventa sempre più protagonista con le imprese nello sviluppo di innovazione di prodotto, nello sviluppo di programmi di comunicazione congiunti. Una cosa è certa, la comunicazione commerciale d'ora in poi non potrà più fare a meno delle opinioni dei consumatori, quello che in gergo tecnico si chiama reviewing. Sarà un ruolo cruciale, tutte le indagini sia in Italia che all'estero testimoniano sempre più. Un individuo non approccia più un brand, non approccia più un prodotto semplicemente rivolgendosi all'azienda, ma per prima cosa guarda quelle sui siti dedicati, i social network, quali sono le opinioni dei cosiddetti peers, dei pari. In questo senso sarà una tendenza sempre più rilevante, le imprese dovranno in questo senso capire che al di là di sviluppare strategie di advertising, di pubblicità, tipico spruzza e prego, no? Come si dice, spray and pray, nella speranza che torni qualcosa, dovranno sempre più orientarsi verso coloro che sono degli influenzatori. In questo senso potranno poi giocare nel reviewing un ruolo cruciale nell'ambito di questi forum dedicati. Finisce qui questa puntata speciale di Essere Avere, dedicata al futuro nei consumi, realizzata in parte con i materiali raccolti in occasione del Capri Trend Watching Festival, evento promosso dalla Fondazione Capri. Abbiamo iniziato con una citazione, ve ne proponiamo altre due in chiusura. Il futuro è lì che si gira a guardarci, scrive William Gibson nell'Accademia dei Sogni. Il miglior modo per predire il futuro è inventarlo, usava a dire pensate Abramo Lincoln. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.